Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Alla riunione dei ministri economici e finanziari europei a Milano, l'apertura tedesca. Schäuble dice che servono più investimenti anche in Germania. Padoan, rispetteremo gli impegni presi sul deficit. Accordato il permesso, il Marò alla Torre tornerà in Italia per curarsi per 4 mesi, presentata una garanzia scritta di rientro in India. Ora pensiamo a Girone, dice il ministro Pinotti. Oscar Pistorius non volle uccidere la fidanzata, o almeno non ci sono le prove. Il verdetto per l'ex atleta paralimpico è omicidio colposo, la pena si saprà a settimane. Gli insegnanti che arrivano da fuori, appena ottenuto il posto, non si presentano al lavoro. Il caso a Milano e in parte del nord. La Lega chiede controlli a tappeto nelle scuole e graduatorie su base regionale. Massima trasparenza, ho chiamato subito il procuratore. Così il presidente della provincia di Trento smentisce che l'obiettivo fosse uccidere l'orsa Danica. E 7 capodogli sono spiaggiati sulle coste abruzzesi, 4 sono morti, in corso i tentativi di salvataggio degli altri, si cerca di spingerli di nuovo in mare. Ci collegheremo con i soccorritori. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In una mattinata nella quale sono arrivati ancora una volta dati negativi per quanto riguarda l'Italia, con la produzione industriale che torna a scendere, segnando a luglio cali decisi sia su base mensile sia su base annua, 1% e 1,8% rispettivamente. Arrivano anche i dati sull'inflazione, l'Istat conferma la deflazione, meno 0,1% a livello generale, e deflazione conclamata in almeno 15 città, tra cui Milano. C'è la riunione dei ministri economici e finanziari dell'Europa che si svolge a Milano, quindi sotto l'egida italiana, per il semestre europeo di presidenza, e arriva un'apertura da parte del ministro all'economia tedesco Wolfgang Schäuble. Ci colleghiamo con il nostro Sergio Nava, che sta seguendo i lavori. Sergio, buongiorno. Buongiorno dal Centro Milano Congressi, dove è ancora in corso l'Eurogruppo informale, a breve ci sarà anche la conferenza stampa. Al centro della discussione le politiche economiche per rilanciare crescita e occupazione in Europa. Su questo c'è, come dicevi, da registrare l'interessante apertura del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, secondo cui ci troviamo in un ambiente economico che richiede un rafforzamento degli investimenti in Europa, Germania inclusa. Per creare una crescita sostenibile, dice Schäuble, servono più investimenti rispetto del consolidamento, riforme e quadro regolatorio migliore. A tracciare comunque i temi d'agenda ci ha pensato, arrivando al MICO, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Sentiamo subito la sua voce. C'è una forte convergenza sull'idea che gli investimenti sono essenziali in tutta Europa per riprendere la crescita. I due ingredienti fondamentali sono riforme strutturali che migliorano l'ambiente per le imprese e più efficacia negli strumenti di finanziamento per attirare i capitali privati. L'Europa deve mettere crescita e occupazione al centro delle priorità dopo che ha messo consolidamento fiscale e unione bancaria, e questo credo che sia totalmente condiviso dai miei colleghi. Come la stessa BCE ammette nel bollettino, come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. Dovrete superare resistenza a Germania. Con la Germania non ci sono resistenze, c'è accordo. Avete ascoltato Padoan, una risposta alla domanda di Radio 24 proprio sul rapporto con la Germania e difficili, come dire, anche intese si possono raggiungere in ambito economico. Infine il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha riconosciuto che gli investimenti sono una parte molto importante del mix di politiche economiche di cui abbiamo bisogno. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di stimolare crescita e occupazione, si tratta di vedere ora con quali ricette. Si parla anche all'Eurogruppo della Francia che starebbe ancora per sforare nuovamente il patto di stabilità, e a quanto pare insomma ci sono molti malumori tra i membri dell'Eurozona. Per il momento da Milano è tutto. Grazie a Sergio Nava, col quale torneremo a collegarci anche in Europa 24, in onda alle 14. E alla stessa Europa si è rivolto questa mattina, a dire il vero con una certa durezza, il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Alcuni tweet di primo mattino da parte del Presidente del Consiglio. Il primo rivolto proprio ai vertici di Bruxelles. Noi rispettiamo il 3%, siamo tra i pochi a farlo. Dall'Europa dunque non ci aspettiamo lezioni, scrive Renzi, ma i 300 miliardi di investimenti. Quindi il capitolo spending review, il Premier replica alla levata di scudi delle regioni preoccupate per l'ipotesi di tagli al Fondo Sanitario Nazionale. Revisione della spesa non significa tagliare la sanità, spiega allora Renzi, ma le regioni, aggiunge il Presidente del Consiglio, prima di fare fare proclami, inizino a spendere bene i soldi che hanno. A minimizzare indiscrezioni di frizioni con il premier è intanto proprio il ministro della Sanità Lorenzin, che dice al momento non è previsto un taglio di 3 miliardi al fondo sanitario. Quello che mi è stato chiesto è il taglio del 3% sulle spese del ministero e lo stiamo predisponendo. Sul fondo sanitario, afferma ancora il ministro, secondo me c'è un allarme eccessivo rispetto alle prospettive. In chiusura, Simone, le parole del commissario alla spending review Cottarelli, che dice a fine ottobre vado via, ma il lavoro va continuato. È tutto. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Parliamo della vicenda dei due fucilieri della Marina. È stato accordato a Massimiliano Latorre un lungo permesso per poter tornare a casa a curarsi. Potrebbe lasciare l'India già domani Massimiliano Latorre. Ad auspicarlo sono i suoi legali dopo il via libera arrivato dalla Corte Suprema indiana al suo rimpatrio per motivi di salute. Il militare avrà 4 mesi di tempo per curarsi a casa dopo la leggera ischemia che lo ha colpito a fine agosto. Come condizione, i giudici gli hanno chiesto una garanzia scritta sul suo rientro a Nuova Delhi al termine del periodo di convalescenza, garanzia subito consegnata dai suoi avvocati. Assieme all'altro marò Salvatore Girone, Latorre è trattenuto in India dal 2012 con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori scambiati per pirati al largo delle coste del Kerala. Soddisfazione per la decisione della Corte indiana è stata espressa dai ministri degli esteri e della difesa Mogherini e Pinotti. Le due hanno anche auspicato che si possa arrivare quanto prima ad una soluzione definitiva della vicenda, un caso che oggi è anche al centro di un botta e risposta polemico fra Matteo Renzi e Giorgia Meloni. Collaborazione con la giustizia indiana e stima per il premier Modi e il suo governo. Lavoreremo insieme su tanti fronti, ha twittato stamattina il presidente del Consiglio. Stimi l'India perché rimanda a casa Latorre per 4 mesi dopo un'ischemia e 2 anni di detenzione illecita. Sei impazzito, è la replica stupita dell'esponente di Fratelli d'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo all'estero adesso, e anzi apriamo una pagina di esteri che inizia dall'Ucraina. Dal fronte economico arriva la notizia di un nuovo crollo del rublo in vista dell'applicazione delle sanzioni europee. Il fronte politico invece vede protagonista il presidente ucraino Poroshenko. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Intanto l'annuncio del presidente ucraino Poroshenko: il prossimo 16 settembre ci sarà la ratifica dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, un momento storico, lo definisce lo stesso Poroshenko, il quale poi promette che la Crimea annessa a marzo dalla Russia con un'operazione Lampo rientrerà a far parte dell'Ucraina, non necessariamente con mezzi militari. Intanto la tregua del 5 settembre regge, seppur con qualche difficoltà, ma va avanti la guerra delle sanzioni, se così la possiamo chiamare. Da oggi entra in vigore il pacchetto di misure restrittive contro la Russia, sostenuto dagli Stati Uniti, approvato da Bruxelles lunedì, ma tra molte perplessità, tant'è che il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy si è affrettato a precisare che queste sanzioni potranno essere revocate dopo un riesame del cessate il fuoco a fine mese. Insomma, nessun provvedimento irreversibile. Le misure dovrebbero rendere più complicata la vita finanziaria per 5 banche statali russe, per le 3 principali compagnie petrolifere e per i maggiori produttori di armi, mentre si allunga di altri 24 nomi la lista nera per un totale di 119 di politici russi e separatisti ucraini che non potranno più entrare in Europa e che si vedranno congelare eventuali averi. La reazione di Mosca naturalmente non si è fatta attendere, con la minaccia di ritorsioni che potrebbero colpire settori dell'auto e dell'abbigliamento. Per ora nessun cenno ai tagli del gas, di cui si discuterà nel trilaterale UE-Ucraina-Russia del 20 settembre. E per ora è tutto, a te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Veniamo all'altra questione internazionale al centro dell'attenzione, ossia la lotta contro gli jihadisti dell'ISIS. Ieri gli americani si sono assicurati di avere una coalizione che comprende 10 paesi arabi, mentre dalla Gran Bretagna Cameron non ha escluso di partecipare all'intervento. Ma si andranno a colpire gli jihadisti anche in zone dove questi combattono contro le truppe di Bashar el-Assad. Oggi le forze armate siriane in effetti hanno colpito un sobborgo di Damasco, uccidendo decine di persone, fra cui, a quanto riferiscono fonti locali, 20 bambini. Per un commento in diretta abbiamo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, vorrei da te un punto sulla situazione, un'analisi della situazione. Ma io io direi che questa coalizione che è stata avviata dagli americani parte già un po' come un'anatra zoppa, se vogliamo. Prima di tutto perché alcuni paesi chiave come la Turchia sono difficili da convincere, tant'è vero che oggi Kerry vola a Istanbul nel tentativo di chiedere a Erdogan di partecipare anche militarmente a questa impresa. I turchi rifiutano di farlo perché in realtà il califato ha 60 ostaggi turchi nelle sue mani, tra cui il console di Mosul, quindi vorrebbero evitare di prendere misure di stampo militare. Oltretutto la Turchia è il paese da cui sono passati migliaia di jihadisti che poi sono andati ad alimentare la guerriglia contro Assad, ma anche poi l'arruolamento dentro le file del califato. Ma anche gli altri partecipanti, l'Arabia Saudita, il Qatar, sono tutti paesi che in fondo hanno sostenuto i gruppi radicali più estremisti. Insomma, non mi sembra di vedere, a parte il numero, questa entusiastica adesione a questa iniziativa americana, che deve essere fatta, ma che si scontra con tutte le contraddizioni che ci sono oggi in Medio Oriente. Allora, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Noi passiamo a parlare di cronaca, ma prima vi do una notizia appena battuta dalle agenzie, molto attesa soprattutto tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle. Il tavolo tecnico che si è riunito oggi alla sede del Ministero dei Beni Culturali a Via di San Michele ha dato parere positivo, con alcune condizioni, vedremo quali sono, alla richiesta della manifestazione del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo dal 10 al 12 ottobre, sperando che così evidentemente si chiuda una polemica che si era aperta. La cronaca, si diceva, questa mattina i funerali di Davide Bifolco, il 17enne ucciso da un carabiniere a Napoli. È stato là per noi Carmelo Prestisimone. Carmelo. Sì, buongiorno. 60 minuti, una cerimonia composta e durata tanto, intensa, per celebrare i funerali di Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni incensurato ucciso da un carabiniere a Napoli al rione Traiano 8 giorni fa. Polizia e carabinieri in borghese, non in divisa, hanno vigilato così sull'ordine pubblico per evitare eventuali tensioni, vista la rabbia della gente del posto emersa dopo il fatto. C'era Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto in seguito alle ferite riportate prima della finale di Coppa Italia. Non è stata una cerimonia affollata, ma c'erano tanti ragazzi con indosso la maglietta "Resti nel cuore di chi non dimentica". Durante la cerimonia hanno parlato alcuni amici di Davide. "Non siamo camorristi come ci vogliono far passare", hanno detto. Dopo il rito, il feretro ha attraversato, portato in spalla le strade del quartiere fino a raggiungere casa del ragazzo, casa di Davide, distante pochi metri dalla chiesa della Medaglia Miracolosa, qui nel rione Traiano, e poi è stato portato al cimitero di Fuori Grotta. È tutto. Grazie a Carmelo Prestisimone. Emergono nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta sulla presunta maxi tangente Eni in Nigeria. Renzi intanto risponde alle polemiche sulla nomina di Descalzi. "Sono felice di aver scelto Claudio Descalzi. Potessi, lo rifarei domattina. Rispetto le indagini e aspetto le sentenze". Matteo Renzi replica su Twitter alle polemiche sulla nomina di Descalzi, riaccese dall'inchiesta sulla presunta maxi tangente Eni in Nigeria, inchiesta che vede indagati per corruzione internazionale, tra gli altri, l'attuale amministratore delegato dell'Eni, all'epoca dei fatti contestati nel 2011 a capo della divisione Oil, e il suo predecessore. Dalle carte dell'inchiesta intanto emergono nuovi elementi sulla linea dell'accusa. Si ritiene che Scaroni e Descalzi abbiano organizzato e diretto l'attività illecita, scrivono i PM milanesi nelle rogatorie con cui hanno chiesto il sequestro di 215 milioni, cifra che corrisponderebbe al prezzo della tangente pagata per ottenere dal governo di Lagos una concessione petrolifera da oltre un miliardo di dollari. Per l'accusa, parte del denaro congelato tra Gran Bretagna e Svizzera sarebbe stato destinato non solo a politici, burocrati e intermediari nigeriani e italiani, tra i quali il lobbista numero uno Luigi Bisignani, ma anche a manager Eni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La morte dell'orsa Danica scatena reazioni, sotto accusa in queste ore anche la provincia autonoma di Trento. Il presidente Ugo Rossi è intervenuto oggi a 24 mattina. Sentiamo che cosa ha detto ad Alessandro Milan. L'orsa Danica ha avuto diversi episodi in cui si è avvicinata alle case, ha predato animali. Vorrei ricordare che anche gli animali che sono morti sono mamme mucche, mamme capre, mamme pecore, con i vitellini, con i capretti e con gli agnellini. Ho capito, Presidente, ma è la natura. Certamente è la natura, però il progetto prevede proprio che siccome gli orsi sono inseriti nella natura, ma in una montagna che è abitata, ci sia la possibilità di poter prelevarli e fare delle catture, perché il progetto ha bisogno anche di essere accettato dalla popolazione. E allora cosa è andato storto? Che l'anestesia probabilmente ha fatto un effetto che in letteratura a volte si verifica, anche per gli umani, vorrei ricordare, e quindi siamo incappati in uno di quei casi statistici che a volte si verifica. Non è stata, perché guardi che l'accusa è anche questa, non è stata voluta. Io le dico solo una cosa, appena sono avvenuti i fatti io ho chiamato il procuratore della Repubblica, che è l'autorità che deve naturalmente garantire che ci siano tutte le cose a posto, ho messo a disposizione subito tutti gli atti e tutte le persone e tutto il corpo forestale della nostra provincia perché si possa avere la massima trasparenza. Allora, procure, richieste di dimissioni del ministro, ipotesi di complotto, si voleva uccidere Danizza, Gianluca Nicoletti è appena uscito dalla diretta di Melog, Cronache Meridiane, in studio a Roma. Gianluca, non è che si è alzato un polverone un po' eccessivo su questa vicenda? Certo, manca che gli facciamo i funerali di Stato all'Orsa Danizza col Presidente della Repubblica e tutte le vergini vestali italiane vestite a lutto dietro, ma siamo veramente ridicoli. Ora, che un veterinario abbia volutamente ucciso l'Orsa Danizza dovrebbe essere un kamikaze, perché oggi, figurati, sarà messo all'indice a tutti i bambini d'Italia, stanno lì con la lacrimuccia. Se un orso sguinzagliato per i prati dove girano famiglie, girano altri animali, crea dei danni, è chiaro ha messo le condizioni di non nuocere. Se l'anestesia può creare un problema nefasto, ci dispiace tutti, non siamo sadici, ma accade ogni giorno a bambini, ad anziani, a persone che un'anestesia venga sbagliata. Ne parlavo stamattina con altri colleghi, se tu ti vai a togliere un dente, devi fare un'anestesia importante, devi firmare un tuo consenso informato, che è un'operazione che potrebbe dare delle conseguenze. Non è che l'Orsa Danizza gli hanno fatto firmare il consenso perché gli facciamo un'anestesia, è andata male, sarà un errore, sarà una valutazione, ci sono delle circostanze fisiche per cui l'orsa non ha retto all'anestesia, ci faranno un bel tappeto e facciamocene una ragione. Non credo che questo debba fare strappare le vesti a tutta l'Italia. Guarda, in passato c'è stata la storia di ammazzano Chip e Chop, veterinari sono stati messi in tribunale, accusati penalmente perché avevano fatto un'operazione di eliminazione di scoiattoli rossi che mettevano a repentaglio altre specie di scoiattoli introdotti da poveri dementi che l'avevano presi e portati poi liberati. La stessa cosa accade per i caprioli, che a un certo punto vanno selezionati, e la stessa cosa accadrà per una serie di altri animali. Non possiamo pensare di avere l'orso allo stato brado e allo stesso tempo avere i praticelli con le famiglie che fanno il picnic. Bisogna fare delle scelte. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. All'Ecofin di Milano, apertura tedesca, Schäuble dice che servono più investimenti anche in Germania. Accordato il permesso, il Marola Torre tornerà in Italia per curarsi per 4 mesi, forse già domani mattina. Non ci sono prove che Oscar Pistorius volesse uccidere la fidanzata. Il verdetto per l'ex atleta paralimpico è omicidio colposo. Massima trasparenza, ho chiamato subito il procuratore, così il presidente della provincia di Trento smentisce che l'obiettivo fosse uccidere l'orsa Danizza. I 7 capodogli sono spiaggiati sulle coste abruzzesi, 4 sono morti, in corso i tentativi di salvataggio degli altri, si cerca di spingerli di nuovo in mare. Ci collegheremo tra poco con i soccorritori, io intanto saluto Giorgio Rembado, presidente dell'associazione Presidi, che torniamo a convocare, ma questa volta per un altro motivo. Preside... o presidente, come preferisce, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno. L'ultima volta abbiamo parlato in realtà della riforma della scuola, oggi le abbiamo chiesto di intervenire nella nostra trasmissione per parlare di un caso particolare che sta succedendo in Lombardia, ma a quanto ci risulta in una serie di anche altre regioni del nord. Ci sono insegnanti che arrivano da fuori e di fatto appena ottenuto il posto non si presentano al lavoro con una scusa o con l'altra. Ci spiega come funziona questo meccanismo e che cosa succede? Sì, purtroppo è un fenomeno ordinario di inadempienza da parte dei docenti supplenti annuali che si si verifica soprattutto nelle scuole del nord Italia, ma un pochino anche in altre, in misura sicuramente inferiore, all'inizio dell'anno scolastico, in cui ovviamente ancora una volta prevale sull'interesse pubblico, sull'interesse generale, quello privato. Bisognerebbe, ovviamente, ci sono delle condizioni, come dire, di sistema che lo consentono, però ovviamente. Ecco, e questo è il punto, io vorrei capire com'è possibile che questa gente, una volta ottenuto il posto, in questo caso il posto di supplenza, possa non presentarsi al lavoro. Perché il fatto di avere assunto servizio dopo la nomina poi di non svolgere però l'attività dal giorno successivo, dà evidentemente qualche diritto, insomma, in termini di punteggio e così via. Allora, da questo punto di vista, ci sono soluzioni che si potrebbero affrontare ovviamente con logiche diciamo diverse, meno protettive nei confronti del personale. Sì, mi scusi Predi, per come ecco. La vedo io da semplice cittadino, questa è una truffa ai danni dello Stato sostanzialmente. Soprattutto ai danni degli studenti e delle scuole, perché non tanto per il fatto che dietro a queste cose non ci sono corrispondenze di retribuzioni, parliamo, diciamo subito questo per essere chiari, però se le nomine, anziché da parte del livello, diciamo, dell'amministrazione periferica, venissero ricondotte come dovrebbe essere già dal 99 alla responsabilità diretta delle scuole, e queste nomine dei supplenti anche annuali e comunque del personale dell'istituto venisse fatta scegliendo da albi del singolo istituto, già queste situazioni verrebbero larghissimamente meno. Poi naturalmente bisognerebbe pure, mi faccia dire anche, arrivare nel caso di una ripetizione di situazioni di questo genere, al depenamento di questi insegnanti tra le graduatorie di istituto, oppure nel caso di quelli che assumono servizio, fanno qualche giorno di insegnamento, poi si assentano magari per motivi di salute, bisognerebbe arrivare al licenziamento per assenze ingiustificate. Tenga conto del fatto che qui la difficoltà che oggettivamente c'è, va al di là della scuola, è che questo dipende ovviamente dalle valutazioni del medico legale e dall'esito delle visite fiscali. Certamente, e anche sui medici evidentemente da questo punto di vista bisognerebbe fare un lavoro. C'è chi chiede controlli a tappeto nelle scuole e graduatorie su base regionale per evitare questo problema, perché cosa succede? Lo dico molto praticamente, gli insegnanti vengono nella scuola nella quale devono fare la supplenza, che è fuori dalla loro regione, è lontano, si prendono, da quel che ho capito, la malattia o quello che è, o una qualche scappatoia, e se ne tornano nella loro regione belli tranquilli a riposare. Questo è più o meno il concetto, no? Sì, io sono ancora più talebano, però, perché a me pare le graduatorie, e tra l'altro lo dirò dopo, preferirei alle graduatorie gli albi, le graduatorie dovrebbero essere a livello di istituto, non a livello regionale, perché questo è ancora un livello, diciamo, di centralizzazione del sistema. Cioè ogni volta che allontaniamo, diciamo, le procedure dal luogo, dalla sede in cui eroga il servizio, si creano disfunzioni di vario tipo, anche a livello regionale, a livello remoto e di tipo centralistico. Non è lo Stato, ma comunque qualche cosa che non funziona ugualmente. Bisognerebbe ricondurre a livello di istituto, dicevo prima, albi e non graduatorie. Per quale motivo? Perché attraverso gli albi ci potrebbe essere la possibilità da parte di scegliere le persone più adatte alle esigenze della singola scuola. Se invece ci buttiamo di nuovo sulle graduatorie, che sono la tradizione del nostro paese e della nostra cultura burocratica e amministrativa, le graduatorie debbono essere necessariamente percorse a seconda del punteggio che ciascuna aspirante ha in graduatoria, senza possibilità da parte delle scuole. Con l'ironia della sorte, che sono i docenti che scelgono le scuole in cui andare ad insegnare e non le scuole. E non le scuole che scelgono i docenti. Allora, io intanto la ringrazio, ringrazio Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e prometto agli ascoltatori che già qualche sms ce lo stanno mandando su questo, che su questa vicenda ci torneremo, perché è sinceramente assurdo. Passiamo a Pretoria, dovremmo avere in collegamento Lorenzo Simoncelli, Pretoria in Sudafrica naturalmente. Lorenzo, ci sei? Buongiorno. Sì, buongiorno da Pretoria. Allora, per parlare della condanna per Oscar Pistorius, una condanna tutto sommato morbida, insomma, ecco, qua si titola, qualcuno titola, non volle uccidere la sua fidanzata, in realtà il punto è che non ci sono state prove sufficienti a dire che era un omicidio premeditato o un omicidio volontario, no? Esattamente così. Beh, se sarà o meno una condanna morbida lo capiremo solamente il 17 d'ottobre, dato che l'ordinamento penale sudafricano non prevede di fatto per l'omicidio colposo una sentenza specifica, se non a discrezione del giudice. Quindi il giudice Malipa ha deciso appunto di prendersi dell'ulteriore tempo a disposizione, e questo sarà fino al 13 ottobre, quando di fatto inizierà una sorta di mini processo che durerà appunto dal 13 al 17 ottobre, quindi 5 giorni, in cui accusa e difesa proporranno appunto attenuanti o aggravanti a seconda appunto delle parti, e addirittura potrebbe essere chiamato anche a qualche ulteriore testimone. Si parla appunto ad esempio da parte dell'accusa della mamma di Riva Steenkamp, la fidanzata di Pistorius uccisa, e quindi solamente il 17 di ottobre avremo un'entità specifica della condanna che è stata appunto letta oggi nella sentenza di omicidio colposo, che comunque non dovrebbe superare i 10 anni di reclusione. I 10 anni di reclusione. Allora io ti ringrazio, grazie a Lorenzo Simoncelli per questo aggiornamento da Pretoria, e saluto Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei Onlus d'Abruzzo. Buongiorno Olivieri, benvenuto. Allora, lei si trova in spiaggia ancora, perché stiamo parlando adesso del tentativo di salvataggio di 7 capodogli che hanno spiaggiato la Avasto. 4 sono morti, mi sembra di aver capito. Sì, 3 sono morti, 3 sono morti, 2 sono stati iniziati. Adesso stiamo cercando di portare a largo un terzo esemplare ancora grave. Quindi 2 siete riusciti a salvarli sostanzialmente? Beh, siamo riusciti a riportarli all'arco. Salvarli lo vedremo nel corso della giornata, perché sono seguiti da Venezia e da Capitaneria di Porto, che ne stanno valutando e monitorando il modo e la direzione. I parametri vitali erano comunque buoni di quelli che siete riusciti a riportare in mare, diciamo così? Sì, anche se i danni che possono aver subito durante lo spiaggiamento sono notevoli. Sì, sento una cosa, ma come può essere avvenuto che sono, insomma, che hanno spiaggiato? Ogni tanto succede con i cetacei, però insomma non è che tutti abbiamo una conoscenza profonda del comportamento dei capodogli. Come mai avviene? È fatto ancora un spiaggiamento di capodogli in Adriatico. L'ultimo è successo nel 2009. Allora Olivieri, io sono molto interessato, però l'audio che abbiamo in questo momento è assolutamente inaccettabile. Vediamo se riusciamo a recuperarlo più avanti. Intanto ci fermiamo per una pausa e poi facciamo i mercati, poi ci ritroveremo subito dopo, parleremo di referendum scozzese e della vicenda del PD in Emilia Romagna. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha firmato il decreto legge sullo smaltimento dell'arretrato civile, quello che comprende anche il taglio delle ferie dei magistrati. Forse oggi la pubblicazione dello Sblocca Italia in Gazzetta Ufficiale, fa sapere il Ministro Lupi. All'Ecofin di Milano un'apertura tedesca, Schäuble dice che servono più investimenti anche in Germania. Accordato il permesso, il Marò La Torre tornerà in Italia per curarsi per 4 mesi, presentata una garanzia scritta di rientro in India, forse partirà già domani mattina. Via libera dal tavolo tecnico al Ministero dei Beni Culturali e alla manifestazione del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo dal 10 al 12 ottobre. Non ci sono prove che Oscar Pistorius volesse uccidere la fidanzata, il verdetto per l'ex atleta paralimpico è omicidio colposo. La borsa. Borse in diretta. È una giornata positiva a Milano, anche se non di molto, più 0,17% sul FTSE MIB, più 0,16% sul FTSE All Share. Per quanto riguarda il resto d'Europa è negativa, con Francoforte che cede lo 0,25%, Parigi lo 0,09% e Londra è positiva, invece guadagna lo 0,23%. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai Milano va meglio delle altre e com'è la giornata di borsa? Ma prevale in generale in Europa una certa cautela, c'è preoccupazione per le eventuali ritorsioni del Cremlino contro le nuove sanzioni introdotte da Stati Uniti ed Europa. Piazza Affari, dicevi, va un po' meglio, questo grazie all'orientamento di alcuni singoli titoli come Finmeccanica, Buzzi, Mediobanca, Jux e World Duty Free, che guadagnano più dell'1%. Non c'è però un movimento complessivo, le azioni delle banche sono in ordine sparso, va bene Monte dei Paschi che avanza un rialzo del 2,6% all'indomani della mossa dei consiglieri Paola De Martini e Marco Turchi, che hanno annunciato la disponibilità a cedere la poltrona a due rappresentanti dei fondi Fintech Advisory e BTG Pactual recentemente entrati nel capitale. Abbiamo detto dei titoli in positivo, in negativo la Popolare di Milano che cede l'1,10%, Pirelli lo 0,84%, Fiat lo 0,82%, Campari lo 0,78%, Telecom Italia lo 0,7%, Autogrill lo 0,6%, Tenaris che cede 0,5%, così come Banco Popolare e A2A. Euro a quota 1,2935 contro dollaro. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ripartiamo adesso dal caso Iara, emergono nuove prove a carico di Bossetti, nuovi indizi. Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo accusato dell'omicidio di Iara Gambirasio, quel 26 novembre del 2010 non sarebbe andato a lavoro. Quel pomeriggio, pochi minuti prima della sparizione di Iara, le registrazioni collocano il suo furgone intorno alla palestra frequentata dalla giovane. Ad avvalorare l'ipotesi dell'assenza di Bossetti dal cantiere, poi, sono state le perizie tecniche e le testimonianze dei colleghi. Elementi che smentirebbero quanto affermato dal muratore di Mappello durante gli interrogatori. L'uomo, infatti, aveva raccontato ai giudici di essere andato regolarmente in cantiere e di essere passato dalla zona del centro sportivo mentre tornava a casa. Indizi che rafforzano la convinzione degli investigatori che stesse aspettando proprio la ragazzina e che potrebbe averla seguita e pedinata per settimane. Una circostanza che sarebbe confermata dalla sua presenza nella zona della palestra frequentata da Iara, soprattutto nelle settimane precedenti la scomparsa della giovane. Intanto il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Bossetti. Il documento, infatti, non era stato notificato agli avvocati della famiglia Gambirasio come previsto dal codice. Un'istanza che gli avvocati dell'uomo intendono ripresentare, mentre la procura valuta la possibilità di andare a giudizio immediato. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. La vicenda dell'Emilia, le indagini su Richetti e Bonaccini che stanno scuotendo il Partito Democratico, a questo è dedicata l'inchiesta di Daniele Biacchessi di oggi. Sul piano politico, i casi di Matteo Richetti e Stefano Bonaccini stanno a Matteo Renzi come quello di Filippo Penati stava a Pierluigi Bersani. Certo, Penati è stato indagato per reati molto gravi come corruzione e finanziamento illecito ai partiti, e Richetti e Bonaccini sono invece coinvolti in un'indagine per le spese del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna che riguardano tutti gli esponenti dei partiti. È indubbio però che per l'immagine di gente come Richetti e Bonaccini si tratta di un colpo mortale. Proprio loro che, come Renzi a livello nazionale, hanno rottamato i vertici del loro partito, prima a Modena, poi in regione, e che per anni hanno declamato la trasparenza e la questione morale. In Emilia, nel PD e negli altri gruppi politici, il problema si chiama mancanza di etica. Sarebbe strano non vederlo. C'è una gestione allegra delle finanze regionali e dei contributi a tutti i gruppi e a tutti i consiglieri. C'è un rapporto ormai troppo stretto tra affari e politiche, aggiungo io anche criminalità, che ora rischia di travolgere tutto e tutti, in particolare il PD, partito da sempre in maggioranza in Emilia. Ci sono giovani rampanti come Richetti e Bonaccini che si presentano come nuovi, ma sembrano persone già vecchie, senza una cultura e uno spessore politico che li possa portare a gestire una delle regioni più virtuose in termini economici del nostro paese. i casi di Richetti e Bonaccini dovrebbero far riflettere seriamente Renzi, perché il caso Emilia potrebbe anche colpire il centro del suo potere. E noi adesso passiamo, torniamo a parlare del referendum scozzese in arrivo. Sugli aspetti economici, ritorniamo su questi a partire dall'annuncio Royal Bank of Scotland che cambierà sede nel caso ci fosse la secessione. Adriano Palazzolo ha intervistato Linda Fabiani, italiana d'origine ma membro del partito indipendentista scozzese. Banks are... Le banche ormai sono più che altro istituzioni internazionali e la Royal Bank of Scotland, se vuole spostare la sua sede, può farlo. Sarebbe solo un cambio di indirizzo. Loro però devono stare ben attenti che questo non intacchi il mercato del lavoro e ci sono altri istituti bancari ben felici di stare qui. Quindi la decisione di queste compagnie di dove registrare la loro sede legale per noi è molto importante. Qui in Scozia abbiamo le competenze necessarie affinché molti istituti di credito vengano da noi e questo è stato confermato da molti. Molti ritengono che in realtà lo scopo ultimo del referendum e dell'eventuale secessione da Regno Unito abbia come ultimo scopo quello di impadronirsi dei giacimenti petroliferi che si trovano soprattutto nei vostri territori. È così? No, it's very, very interesting. È davvero molto interessante quando guardi ai ricavi petroliferi che sono arrivati dagli anni 70 in poi. Questo problema è stato sollevato dal Regno Unito. Loro non hanno fatto una ricerca adeguata sulle nostre risorse, per esempio, ma neanche noi, non istituendo un fondo per il petrolio. Comunque, osservando la performance dei valori che indicano la crescita economica in base alla domanda di petrolio, noti che quella della Scozia è simile a quella del Regno Unito. Per noi il petrolio è un bonus, non una necessità. Quindi no, non è solo per il petrolio, ma siamo benedetti e fortunati ad avere una tale straordinaria risorsa. Si apre oggi la 14ª edizione del Festival Filosofia. Sarà la gloria il tema di cui si discuterà alla 14ª edizione del Festival Filosofia in programma a Modena, Carpi e Sassuolo da venerdì a domenica 14 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città. 200 appuntamenti e tutti gratuiti. Il festival, che lo scorso anno ha registrato oltre 200.000 presenze, vedrà anche quest'anno piazze e cortili ospitare oltre 50 lezioni magistrali con i maestri del pensiero filosofico aperti al confronto col pubblico, ma anche mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche. Ma sulla scelta del tema, la gloria, appunto, Michelina Borsari, direttore del festival, spiega perché la celebrità è una questione cruciale ai giorni nostri. Ci pareva che questo tema fosse uno dei temi centrali, sotto mentite spoglie, perché la chiamiamo celebrità, perché la chiamiamo reputazione, perché la chiamiamo populismo, e che però in questa ricerca di ciascuno al riconoscimento, ad essere comunque riconosciuti, questa possibilità che ciascuno ha attraverso le tecnologie che prima non c'erano, che oggi ci sono, di avere l'illusione di poter accedere alla superficie gloriosa dello star system, ecco, ci sembrava che fosse una delle questioni importanti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prima della linea a Mario Platero, una notizia appena battuta dalle agenzie. Ricordate, conoscete Malala Yousafzai, una ragazzina diventata simbolo della lotta per i diritti civili in Pakistan. Ebbene, i militanti islamici pakistani che tentarono di ucciderla nel 2012 sono stati arrestati. La notizia è di pochi istanti fa. Ed è tutto per Effetto Giorno, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. Effetto Giorno torna lunedì alle 13 in diretta dalla Fiera del Levante, stand della Regione Puglia, ci trovate là se volete venirci a vedere. A lunedì.